Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Anni 80, mi dice Gianmarco Ferronato dalla regia, Sweet Dreams, Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato appunto, ed Edoardo Lavezzari in redazione. Oggi Giovanni Capuano è venuto ci a vorrebbe trovare qualcosa di più moderno però, ma sì, lo so, dai Gio, è venuto a trovarmi per registrare un promo che vi ricorderà che saremo in onda con tutti i convocati tutta l'estate, lo ascolterete, me lo sono tenuto perché mi faceva molto piacere. Ciao Gio. Ciao. Tutta l'estate, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sempre venerdì, dalle 14, poi perché loro vanno in vacanza e noi invece stiamo qui a fare la guardia al bidone. Al bidone. Ma vedo un Leo Turrini perché meraviglioso, ma l'avremo vero oggi? Ce l'avremo, è lì scatenato davanti al museo di Maranello. È comunque un'estate da raccontare perché Sweet Dreams vale anche per la Ferrari e per i mondiali. Sweet Dreams vale anche per Fabio Aru e ieri al tour. Stanno succedendo, sono successe e succederanno cose turche tra Aru e Froome. Ma parliamo dei sogni, magari anche di qualche incubo dell'estate calcistica. Ti va? Sì, anche perché ci sono alcuni casi che andrebbero analizzati per bene. Adesso tanto li passiamo tutti in rassegna. Ad esempio io esprimo la mia solidarietà a Pioli a proposito di sogni e incubi. No, quelli sono incubi. Cos'hai sognato stanotte? No, guarda, stanotte non ho sognato nulla. Ieri però ho visto la prima amichevole dell'Inter su Facebook. Sì, insieme ad altri 25.000. No, 25.000 per volta, perché i numeri sono molto più alti. Va bene. Solite notizie dai social, ma poi ve le da Giovanni che è molto più ferrato di me. Io partirei dai sogni di Napoli e di Di Maro, perché la parola scudetto sta nei sogni dei napoletani, e napoletano è Insigne, ragazzi. È un sogno che, come ce l'ho io, il mister, i miei compagni, ce l'avete anche voi. Noi quest'anno cercheremo di ripartire dopo che abbiamo finito l'ultimo campionato, che abbiamo dato il massimo nelle ultime partite e abbiamo lanciato grandi basi per partire quest'anno alla grande. Poi, per parlare già di scudetto, penso che è un po' presto, però noi quest'anno daremo tutto perché siamo consapevoli che sarà un anno importante e noi cercheremo di dare il massimo tutte le partite per arrivare a un traguardo importante che sarà lo scudetto. Sarri, la parola scudetto non l'ha mai pronunciata da che è a Napoli. Ma così Sarri non la pronuncerà nemmeno il giorno in cui lo vincerà, perché prima o poi lo vincerà. Comunque, guarda là, Leo Turrini in diretta su Skype, poi sarà con noi alle 2:30. Però la vera novità è che Insigne ha nominato la parola scudetto e De Laurentiis non l'ha cazziato, cosa che invece negli anni scorsi faceva. Quindi vuol dire che la parola scudetto è sdoganata. Per Napoli è sdoganata. Via. Senti, sul sogno di mercato dell'Inter, qui poi vi faccio sentire Spalletti e poi faccio io un po' il social e vi leggo un Instagram di ieri. Allora, il sogno dell'Inter si chiama Rajan Nainggolan. E mi sono dilungato su di lui perché io da lui ho ricevuto molto, per cui mi fa piacere spendere un minuto di più di belle parole nei suoi confronti. Però poi i nostri direttori hanno in mano quelle che sono le situazioni che ci riguardano e stanno lavorando a 360 gradi e dei nostri direttori ci possiamo fidare perché sono due direttori di qualità. Molto bene, questo è quello che ha detto ieri Spalletti su Nainggolan. Allora, io adesso faccio un po' il social, poi lascio la parte a te e vi leggo uno scambio di battute tra romanisti o ex romanisti. C'è Kevin Strootman che ha scritto in inglese: buona fortuna a mio bro, a mio fratello Tony Rudiger e al suo nuovo club che è il Chelsea ufficiale. Combatteremo per sopperire alla sua mancanza, ma specialmente speriamo che sia l'ultima di queste cessioni. Poi c'è Nainggolan che risponde: non lo so, con tre faccine che ridono quelle con le lacrime agli occhi. Sì, quelli che si rotolano dalle risate. E c'è Salah che è già andato e che quindi non è parte in causa, che risponde, che scrive... Che ci mette il caricone, dai. Ci mette il caricone della manta. Il tempo è per Raja adesso. Altra faccina che ride con le lacrime agli occhi. E quindi non possiamo dire che Nainggolan andrà all'Inter, ma non possiamo escludere che Nainggolan andrà via dalla Roma, perché a questo punto non ci si può fidare nemmeno delle parole di Monchi, che aveva detto anche che Rudiger era incedibile, che la Roma non era un supermercato, e noi settimana scorsa come l'abbiamo definito? Il furbo, no? È arrivato, li sta vendendo tutti. Però quello che è vero, e attenzione perché le parole di Spalletti vanno ascoltate con grandissimo senso di analisi, quello che è vero è che l'Inter farà di tutto per prendersi Nainggolan, anche a costo di doverlo aspettare un po', perché è considerato uno dei pochi giocatori capaci davvero di spostare qualcosa nell'immediato. Giovanni, ci vuole anche all'Inter, comunque ci vorrà il colpo che accenda la fantasia dei tifosi, al di là di un mercato su cui si sta già lavorando. Tra poco sentiamo Pioli, però prima, visto che stiamo parlando di Nainggolan, anticipo le parole di Monchi, il quale dice: no, guardate che le cessioni di lusso sono finite, eh? Credo che la epoca de salidas de jugadores importantes ya se ha acabado en nuestro club y ahora es el tiempo de construir con las opciones que nos faltan de mercado la escuadra definitiva. Bene, nel frattempo di costruire la squadra definitiva, diciamoci, però aveva già giurato che non, detto che non sarebbe partito Rudiger al 100%, eccetera, eccetera. Mi è molto simpatico Rudiger, ma intanto la diaspora continua. Quindi crediamoci se vogliamo. Sì, ma io credo che le due tifoserie che oggi sono più preoccupate per il mercato della propria squadra sono quelle che hanno meno chiarezze e meno certezze. Cioè, nessuno ha ancora sentito la voce di Sabatini, ad esempio, quali sono i programmi per l'Inter. Sabatini lavora per l'Inter da più di un mese e quindi i tifosi dell'Inter sono lì che non capiscono, ma perché gli era pazienza, stato prospettato, signora, un grande mercato di top player, eccetera, fin qui hanno visto i giovani Borja Valero e Skriniar. Sì, ma che devono avere pazienza. Quelli della Roma io li capisco, io li capisco. Guarda, c'è un amico che scrive: Di Francesco per la Roma si sta dimostrando una disgrazia. Ma non è il problema di Francesco. Anche se magari qualcuno può avere in mente che la Roma abbia preso un tecnico bravo, emergente, in crescita, ma che possa non avere quella personalità che magari ha Spalletti, che l'altro giorno ha detto: mi hanno promesso delle cose sul mercato, se non saranno rispettate le promesse io vengo qui e ve le racconto. Guarda, Spalletti parla un po' come Mourinho. Dopo, tra poco ne parliamo, il primo vero colpo di mercato efficace dell'Inter e state con noi, vi spieghiamo perché. 800 24 00 24, dato che siamo passati al capitolo incubi con la Roma, ce n'è un altro che è quello di Pioli a Fiorentina. Sentiamo Pioli. Si è chiuso un ciclo secondo noi e se ne deve aprire un altro. I giocatori che arriveranno dovranno essere giocatori sicuramente che possono far sì che la squadra sia competitiva. A me è stato promesso una squadra competitiva e credo che riusciremo a mettere in campo una squadra competitiva. Chiaro che sono allenatore ed è chiaro che vorrei avere il prima possibile a disposizione l'organico completo, ma so benissimo che il mercato ha diverse dinamiche che non tutte noi possiamo controllare, e credo che dovranno arrivare giocatori orgogliosi di vestire una maglia così importante come la nostra, orgogliosi di rappresentare la città intera. Convocati. Tutti convocati. Sono a durare fatica, per cui per piacere non fare così, perché sennò si diventa scomodo. Sentiamo troppo la Inter. Ho capito, noi. Ma non rompere i coglioni, noi non si rompe i coglioni a te, oggi sono a lavorare, tu non rompi i coglioni a noi e siamo fatti. Perché sennò si fa vedere che siamo come te, non ridere perché ti si fa vedere che siamo come te. Poi infatti se te si fa quello che vuoi. Bravo! Luciano! Sembra Mourinho, è per questo che vi dico. Allora, ieri screzio tra Spalletti e un tifoso che insultava Ranocchia. È per questo che vi dico che al momento il vero valore aggiunto dei nerazzurri è proprio l'allenatore. Poiché c'è chi ci dice che è pessimista e scrive messaggi del tipo: no, ma tanto Nainggolan non lo prendiamo perché non abbiamo i soldi. No, aspetta un attimo. Allora, abbiamo due ascoltatori, 800240024. Potete vederci sulla pagina Facebook di Tutti Convocati, così se, insomma, ci fa piacere. Così leggiamo anche qualche domanda. Allora, anche qualche ad esempio, vostro commento. Matteo Munaretti che ci chiede cosa ne pensiamo di Cercia Cassano al Verona. Cercia al Verona, bella, è la notizia. Bella. Io ne penso male, malino. Tu ne pensi malino? Vanno con Pazzini, e questo ha un fascino. Attacco old fashion, però, Cerci, Cassano, Pazzini, attacco old fashion per il Verona. Poi vediamo. Giuseppe Mercadante: Rudiger è partito solo perché l'operazione Manolas è sfumata all'ultimo secondo, cosa che Monchi non poteva aspettarsi. Beh, quando ha detto sì, però poi parte anche Manolas. Poi parte anche Manolas, quindi, è partito Paredes, quindi le cose non funzionano. E poi soprattutto con Salah i problemi di bilancio erano stati sanati, quindi deve cominciare per forza la ricostruzione. Argomento Roma, altro tema su cui ritorneremo, ve lo dico già dopo il GR. Posso lanciare una provocazione? Allora, abbiamo sentito Spalletti. Io so che tanti tifosi dell'Inter se la sono presa con Spalletti, perché ha difeso Ranocchia, perché ha risposto per le rime a quel tifoso in cui tanti tifosi dell'Inter si identificano, perché Ranocchia, così come altri, Nagatomo, insomma, è il simbolo di quello che è stato l'Inter nelle ultime stagioni. Allora, io vorrei sapere, alla gente a casa, con chi sta? Se con Spalletti o con chi comunque vuole regolare i conti con alcuni, Ranocchi e altri giocatori, non li vuole più vedere. Oppure se ti io fa sto Inter con oppure Spalletti, no. Io sto con Spalletti perché i tifosi dell'Inter non possono dire vogliamo un uomo forte e poi se Spalletti fa l'uomo forte lamentarsi, no, perché prende posizioni, no, difende la squadra. Se tifano l'Inter e o fa quello che sono ha fatto lì per insultare qualcuno. Però siamo aperti, 800 24. Ma per carità, c'è Davide da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per la convocazione. A te grazie. Io sono da Vicenza, ma sono un tifoso atipico della Fiorentina, nel senso che abitando a 300 km di distanza non vivo la città. Al cuore non si comanda. Esatto, bravissimo. Però volevo ricordare ai miei colleghi della Curva Fiesole in modo particolare che 5 anni fa, nel dopo Mihajlovic, fu fatta tabula rasa di quella Fiorentina, di vari Jovetic, Nastasic, eccetera, e si è ripartiti con i Borja Valero, con i Gonzalo, eccetera, eccetera. La squadra ha raggiunto 3-4 volte, ha sfiorato la Champions e ha fatto vedere un bel gioco. Sì. Quindi è vero che partono tutti i mostri sacri, però di avere un po' di pazienza, perché i Della Valle ci hanno raccolto quando giocavamo con i Poggi Bonsi. No, ma sono e hanno speso tanto. No, un attimo, però c'è una differenza rispetto a quel periodo. Mi sembra che ci sia uno scollamento molto profondo, una distanza molto profonda, così come non c'è mai stata tra i Della Valle e la Fiorentina. L'unica differenza, mi pare, o una differenza importante, mi pare questa. Sentiamo anche Daniele da Campobasso, Gio. Sì, buongiorno. Buongiorno, io volevo intervenire sul mercato della Roma. Sì. Quindi vi affascinano gli incubi, va bene, d'accordo. Sì, praticamente volevo dire questo, no? Che Monci, la dirigenza, mi sembrano Tarek Aziz e Saddam Hussein quando gli americani stavano alle porte e dicevano: ah no, stiamo vincendo la guerra, vinceremo la guerra, vinceremo. È la stessa cosa, praticamente... Altro po' vendono pure le scrivanie a Trigoria. però chi ha vinto la guerra lo vediamo fra qualche mese. Lo so, però sì. C'ha un po' la faccia di quello che di Totò che vende la fontana di Trevi. C'ha la faccia del furbo. C'ha la faccia del furbo. Senti, ripeti la provocazione ad Evaristo Beccalossi. Che sicuramente io so con chi starà lui. Ciao Beccalossi. Che poi conquisto io. Cioè io sto con Spalletti, che piuttosto prende a male parole i tifosi per difendere Ranocchia, che è il simbolo del fallimento dell'Inter delle ultime stagioni, piuttosto che con i tifosi che vanno avanti a guardare all'Inter pensando al passato. Bravo. Se volevano l'uomo forte l'hanno avuto, adesso però se lo devono tenere, no? E Spalletti dice a questo tifoso: senti, un rompere i coglioni. Hai sentito, no? Ma sì, ma vabbè, si sa che ha carattere, però credo che in questo momento la mia linea è quella proprio che si aspetta qualche inserimento importante nella squadra. Poi dopo la questione del gruppo, di avere una situazione per andare a fare un risultato sportivo e devi arrivare nei primi quattro, perché quest'anno... E le chiacchiere stanno al zero, dentro, fuori, sopra, intorno. Ma ne sono state fatte troppe, Becca, di chiacchiere intorno all'Inter. Ma è quello il problema. Cioè, il problema di Borca Valero è lo scollamento tra Borca Valero e quello che per mesi si sono sentiti raccontare i tifosi dell'Inter. No, però scusami, Becca, però c'è un altro punto. Poi dici tutto quello che vuoi. Spalletti è lì a valutare comunque un gruppo, un materiale umano, un personale, diciamo, che non può essere. Non può avere il valore che abbiamo visto l'anno scorso. Perché l'anno scorso. Sono convinto che in una prospettiva diversa, in una scatola diversa, in un contesto diverso, ci siano dei giocatori che non sono così pippe come pensiamo. No, ma difatti quel lavoro lì credo che nella valutazione di chi ha a disposizione è già stata fatta. Perché secondo me due o tre giocatori ancora arriveranno. Adesso c'è da gestire questa fase di preparazione, perché poi. Qualcuno magari non li conosci personalmente, magari parlandoci, però ha idee chiare, cioè chi non sposa la causa di indossare quella maglia lì e andare oltre, le chiacchiere stanno a zero e devi andare a cercare di raggiungere l'obiettivo, cioè devi arrivare nei primi quattro, quindi lo sanno chi lavora in società, lo sa anche Spalletti, non si ha più tempo di dire a uno: scusa, noi adesso abbiamo questo progetto, c'è troppe chiacchiere, o ci sei o non ci sei. Bravo, dentro fuori, dentro fuori. Dentro fuori. Poche parole chiare, zitti e pedalare. Ma poi io sono convinto anche che comunque il mercato arriverà, gli acquisti arriveranno, i giocatori funzionali al progetto arriveranno, arriverà anche un top player, perché serve per accendere la fantasia dei tifosi, magari Nainggolan o chi per esso, certamente uno funziona. Lo so, ma sarebbe l'ideale per tutti in Europa. A me interessava, voi avete toccato il tasto giusto, di quel gruppo di giocatori lì, non è più tempo di fare dei ragionamenti. C'è un treno che parte, chi sale e ha la motivazione, chi è lì che tentella, via. Però Becca, cioè, Spalletti sa già chi serve e chi non ha bisogno di lavorare a Brunico con quattro giocatori più i ragazzi della primavera, ma perché questo è giusto che valuti l'atteggiamento, Giovanni, perché l'anno scorso si sono comportati professionalmente male, Poi dopo bisogna essere anche bravi a capire perché non reagivano, perché io credo che il manico sia, cioè chi ha delle responsabilità è sempre determinante, perché anche cammin facendo, se vedo uno che io vado a comunicare e non segue, non è la strada, e devi prendere delle scelte. Invece si cercava di accontentare tutti, quindi sono dei professionisti, da uomo a uomo ci si guarda e dice: chi c'è, chi non c'è, prego, si accomodi. Quindi tradotto, nessuno tra Mancini, De Boer, Pioli e Vecchi, forse il Manchester era magari il Manchester, secondo me, aveva capito tutto dritto. Un anno fa aveva capito tutto con un anno anticipo. Qualcuno disse forse era meglio Manchester, che almeno era diretto piuttosto che il casino dopo. Però cioè, la domanda oggi è: Spalletti che è entrato nel mondo Inter con questo atteggiamento, noi l'abbiamo sentito prendere a male parole i tifosi, però guardate che quello che ha detto la società, mi sono state fatte promesse, se non verranno mantenute io vengo qui e la racconto, è una cosa dura, pesante a digerire. Ma allora, questo modo di entrare nel mondo Inter di Spalletti, secondo te, Becca, è la garanzia che l'Inter ha trovato quell'uomo forte che serviva al di là del valore tecnico? Allora, come allenatore si sa che secondo me non ha ancora, cioè, ha vinto in Russia, però in Italia con la Roma, quando l'ha fatta anche giocare bene, è una grande chance, quindi è un uomo di personalità, di carisma, e ti ripeto, mi piace la linea perché chi c'è c'è. Ma quindi i tifosi si devono fidare, se sì, lui no, dice oggi Ranocchia è fortissimo, Kondogbia, ieri ha detto Kondogbia mi ha stupito, ha giocato contro il VAR, si devono fidare, Il tifoso interista, lo conosco da una vita, so com'è, anche quelle cose gli va bene perché difendi un giocatore e tutto, però non abbiamo più tempo di correre dietro, non, e non c'è più poi magari, ecco, il tempo delle parole è finito, magari avrei mandato qualcun altro e non doveva magari andare lui, però lui è carismatico, è forte e basta chiacchiere e si lavora. Beh, perfetto, campo, perfetto, perché si arriva. Ti faccio un nome, io credo che Brozovic non sia certo il giocatore che abbiamo visto l'anno prossimo. Beck, ci sentiamo presto perché con te volevo fare un altro discorsetto, okay, per cui tu sei l'uomo giusto, ma ci sentiamo tra un po', ci sentiamo tra un po', non svelo niente. Grazie Maristo, ti lascio andare. Leggo tre messaggi da Facebook, tre velocissimi, uno ci chiede se la Juve ha fatto una buona scelta sul portiere del futuro. Se è Szczęsny, sì. La seconda ci dice che il linguaggio di Sarri sta andando in moda, poi magari parleremo anche di che cosa ha detto sulla VAR che inizia l'anno prossimo, e poi c'è un altro che dice è tornato lo scudetto di luglio, che vincono tutti, poi arriva la Juve e vince, Alessandro Bianchi. Ma questo può anche su essere. Su Facebook è pagina di tutti i convocati. Senti, andiamo con la borsa e siamo in tempo, perché poi c'è un Leo Turrini che dannata, deve raccontarci la gara di ieri. Ad avere i soldi di Inzaghi. Tutti convocati. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Bella, gran predata che parte adesso, grande spunto di botta sul portiere, poi è andato Sebastian Vettel attaccato di dietro da Daniel Ricciardo che cerca un incrocio con Kimi Räikkönen che gli chiude un po' la porta alla sua sinistra, il contatto là dietro, sono volati via pezzi, vola via la Red Bull di Verstappen. Yes, great job, really good yes. job. Yeah, guys. Thank you. That was good. Wow, was that amazing. Una curva lunga, Sebastian Vettel perché l'ha voluta tenere fino all'ultimo, la tensione alta con Walter Bottas che vince il Gran Premio d'Austria, ma che gara magica nel finale di Sebastian Vettel con Ricciardo che riesce a conquistare il quinto podio consecutivo e risulta come se avesse vinto. Sì, all'inizio con Kimi ero importante per mia gara e alla fine sì, ho fatto due buone cose per prendere nel podio. Possiamo dire che la parola mondiale non è più un tabù ormai? No, spero che veramente non sia un tabù. Loro sono pronti a giocarsela. Fettere e Marchione, questi, parlavamo di Sweet Dreamers all'inizio. Sai, Giovanni Capuano, Leo Turrini continua a definire, credo continuerà anche oggi a definire Bottas il pilota coi voucher. Intanto ha vinto un'altra corsa, intanto è davanti a Hamilton, intanto ieri Vettel è arrivato secondo, allunga sul Moro, chi si aspettava la resa dei conti in stile mezzogiorno di fuoco, anzi pomeriggio di fuoco tra i due, è arrivato deluso anche perché Hamilton non si è avvicinato. Ciao Leo! Sono in coda sulla Pero Cormano, scusate, ma qui sta accadendo una cosa incredibile. Siamo in coda e ogni volta che c'è un accenno di ripartenza tutti tentano lo scatto alla Bottas. Dovreste vedere che roba è, tutti un cercano di rubare su un sensore, una cosa pazzesca. Sempre pilota coi voucher, perché anche sulla Pero Cormano ci sono i sensori. Io direi che più che pilota coi voucher qui sta accadendo l'incredibile. È la rivolta di Spartaco, la ribellione del maggiordomo. Cosa vi devo dire? Io all'inizio del campionato ho detto anche agli amici di Radio 24: se Bottas vince il titolo, faccio come Rosberg, mi ritiro io, però non da campione del mondo, mi ritiro dalla professione. Ho iniziato a svuotare i cassetti perché qui non passare da un estremo all'altro, onore al merito ragazzi. Allora, Bottas è stato almeno due volte in questa stagione fermato dalla squadra per favorire Hamilton, sì. Ciò nonostante ha già vinto due Gran Premi e nella classifica del campionato non è tanto lontano dal suo capitano. No. Allora bisogna prendere atto che l'acqua va in salita, che qui veramente si sta rovesciando tutto. Trump è presidente degli Stati Uniti, poi se volete posso andare avanti. Nell'Inter c'è ancora Nagatomo in rosa e Bottas potrebbe anche vincere il campionato. Sicuro nessuno gli potrà più chiedere di fermarsi, no, ma poi, o di agevolare poi magari gli fanno un contratto e non continuano a pagarlo coi buoni pasto. No, adesso io sono curioso davvero di verificare cosa accadrà in Mercedes già da domenica a Silverstone, perché è chiaro che Hamilton a questo punto deve vincere subito, non solo per un discorso della rincorsa Vettel che sta sotto di 20 punti in questo momento eccetera, ma proprio per ripristinare una gerarchia in famiglia, perché se Bottas si arriva davanti anche a Silverstone e quindi di fatto lo raggiunge nella graduatoria gridata, beh, allora dopo come si fa ad andare dal maggiordomo a dirgli devi continuare a portare la colazione a letto il re nero? No, ecco, ma sai cosa Leo? Mi sembra che il re nero sia alle prese con un po' di seghe mentali, per usare un'espressione non elegantissima. Mi sembra un po'... No, è un francesismo che io apprezzo francesismo, molto. Francesismo. Beh, potremmo metterla così. Sicuramente dopo il famoso, famigerato episodio di Baku, Hamilton si aspettava un intervento diverso da parte della Federazione Internazionale. Non ci credo, ma dai, non poteva aspettarselo, ma si aspettava la squalifica, ma io non ho detto, io ho sempre difeso Vettel, ma non è questione di difendere, non può essere così ingenuo da aspettarsi un intervento diverso. Caro Genta, ti vorrei segnalare, dato che viviamo, io sono molto anziano, andavo a cena con Nuvolari, Varzi, quindi per me certi strumenti sono veramente mezzi del demonio. Dai. Sui social è successo venerdì, non tantissimi giorni fa, un fan di Hamilton ha messo su Instagram che la FIA aveva dimostrato, evitando di aggravare la sanzione a carico di Vettel, di essere faziosa e pro Ferrari, che era una vergogna, e lui si è cliccato mi piace, il cuoricino. Lui chiaramente, secondo me, ha vissuto questo weekend austriaco con una carica di tensione che alla fine lo ha divorato, perché è vero, ha avuto la sfortuna, non è colpa sua, della sostituzione del cambio, ma il sabato in qualifica Hamilton aveva fatto il terzo tempo dietro Bottas e Vettel, non il primo, e ieri in gara sembrava in coda sulla Pero Cormano Hamilton, perché non ha fatto vedere nulla di che, pur guidando una Mercedes. Però io lo sospetto che Leo stia girando intorno al tema, cioè che se Vettel avesse invece una seconda guida di livello, oggi sarebbe un po' più avanti di come non, è. Perché io ad esempio ieri sono rimasto molto deluso da Raikkonen, che non riesce a finire davanti a Hamilton. Era l'unica cosa che doveva fare. Non provocare, dai. Allora io adesso tanto tempo, perché sono appena Cormano, la cosa si sta allungando. Davanti a me c'è un camionista georgiano che ogni ripartenza tenta la mossa alla botta, se io sussulto sempre. No, ma voglio dire, Capuano è un carissimo amico. Vorrei semplicemente segnalare due cose alla sua attenzione. La prima, che se voi guardate la partenza del Gran Premio d'Austria, Raikkonen protegge Vettel, che non era partito male, e sacrifica due posizioni per impedire che Vettel perda il secondo posto. Scusate, io è vero, andavo a cena con Nuvolari, Vardi, eccetera, ma queste cose qui, cioè, non è che no, ci è vuole. Vero, questo l'ha fatto. Non ho finito. Due, nella prima fase della gara Raikkonen è rimasto fuori 42 giri con la gomma di partenza, più di tutti, e si è tenuto dietro a Lewis Hamilton per 10 giri. Cioè, le corse bisogna guardarle, perché se Hamilton passa Raikkonen in quella fase lì, io non sono sicuro che Vettel arriva davanti al nero, poi se uno mi dice ma c'ha la Ferrari, quindi ci stai dicendo che la Mercedes è nettamente superiore alla Ferrari, e quindi anche io, se Marchione dice che il mondiale non è un tabù, ci stiamo illudendo tutti, perché se Hamilton ottavo può arrivare davanti a Vettel secondo. Allora, il mondiale non è un tabù, la Ferrari convette la 20 punti di vantaggio nelle ultime tre gare. Anche qui vorrei scomodare le mie cene con i fratelli Brambilla, eccetera, e il povero Ronnie Peterson quando eravamo giovani negli anni 50. Nelle ultime tre gare la Mercedes ha fatto un salto in avanti dal Canada in poi in termini di prestazione. Che io spero sinceramente che la Ferrari, già da Silverstone con la nuova evoluzione del motore, riesca a reagire, ma è fuori di dubbio che nelle ultime tre gare la Mercedes era complessivamente più veloce della Ferrari. Eppure siamo davanti. Allora io dico da molto molto tempo, perché ahimè sono rincoglionito, questo è un campionato che si vince in fabbrica, no? E tutti ti guardano come dire, ma guarda questo rimbambito. Hai perfettamente ragione. Perché c'è un equilibrio tale tra le due scuderie dominanti che saranno le modifiche, gli sviluppi sulla monoposto e i dettagli a fare la differenza. Ora la Mercedes è fuori di dubbio che dopo Monte Carlo abbia recuperato, migliorando tantissimo la sua relazione con la gomma, e tocca alla Ferrari adesso reagire, perché bisogna che Vettel tra Inghilterra e Ungheria prima della pausa estiva ne vinca almeno una, perché diversamente tanto siamo qui per parlarne. Senti, io ti devo salutare che oggi sono un po' di corsa, però ci ripigliamo in settimana. Comunque venerdì abbiamo un appuntamento con Racing Team, e questo sta chiaro. Ti chiedo solo una cosa: ti piacerebbe fare il ministro dello sport? Dunque, adesso ho sentito che Marchione ha rifiutato di fare il capo del governo. Rispondimi. Ti piacerebbe ministro dello sport? Sì, io sarei un grande ministro dello sport, perché nominerei subito Genta, mio braccio destro. No, non ci tengo, grazie. Affiderei a Capuano un ruolo importante nella comunicazione. Io non ci tengo a fare quel ruolo lì. Comunque, Freddy da Milano ti propone come ministro dello sport. No, Freddy, ragione, perché io ero a Roma alle Olimpiadi del 60, ero già anziano, ho visto Bichila, Berruti, Cassius Clay, Nino Benvenuti. Effettivamente sarei all'altezza del ruolo, ve lo posso garantire. Va bene, facciamo campagna elettorale. Ciao Leo, abbraccioni. Ciao. Traffico, torniamo subito. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Gioia del Canada, campione del mondo under 19 2017, 7-9, 6-0 il risultato della finale. Gli azzurri tornano a casa con uno splendido argento. Uno splendido argento che dimostra come si possa raggiungere un risultato oltre alla somma del talento, perché il basket è un gioco di squadra. Bravo Marco Crespi nel commento tecnico di questa finale degli mondiali under 19 contro il Canada, che abbiamo disputato l'ultima volta nel 91 e io continuo ad avere una fiducia veramente forte nel momento attuale del basket italiano. Ciao Marco. Ciao Carlo. Ciao. Senti, c'è in linea con noi, vorrei che ci parlassi tu, Andrea Capobianco, che è stato l'allenatore della nazionale femminile e poi subito è andato ad allenare il mondiale Under 19 e sta lavorando come un matto e sta lavorando benissimo. A proposito, Raffaella Masciadri ci ha scritto un tweet, magari ci chiama anche, voglio fare i complimenti al mio coach Capobianco. Ciao Andrea. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao. Allora Marco, questa Under 19 di Capobianco ce l'hai a disposizione, cosa vuoi chiedergli? Ma io penso innanzitutto, ma non fatto i grandi complimenti ad Andrea per quello che ha fatto con la nazionale femminile e con ovviamente l'Under 19, perché poi il risultato finale troppe volte è un dolce nel caso dell'Under 19 o amaro inganno nel caso della nazionale femminile. Però penso che quello che conta per un allenatore, quindi per quello che dobbiamo tutti complimentarci, è come una squadra trasmette prima di tutto a se stessa e poi a tutti noi un'emozione, e diciamo l'estate del nostro basket è stata emozionante grazie al lavoro di Andrea Capobianco. Quindi mi consenti, professor Crespi, di essere ottimista? Di essere ottimista è un'altra cosa, io parlo soprattutto del basket maschile. Perché? Perché credo che un risultato bellissimo, un risultato andando oltre la somma dei talenti, sia qualcosa di bello. Poi il momento, la salute del nostro basket e soprattutto quello che bisogna fare per far sì che questi ragazzi non blocchino la loro formazione, la loro crescita, è un altro discorso. Andrea. Buongiorno, ciao Marco, grazie. Grazie Marco. Andrea? Sì, ti sentiamo? No, hai sentito quello che ha detto Marco Crespi? No, condivido quello che dice Marco, le parole. Io penso questo, io sono sempre stato molto fissato sui giovani e ho sempre creduto che i risultati possano dare assolutamente tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo che abbiamo non ci deve far perdere di vista ciò che dobbiamo fare, nel senso che io ho conosciuto e teniamo presente che questi ragazzi sono i ragazzi che hanno fatto il trofeo dell'amicizia quando io sono entrato al Centro Internazionale, quindi hanno fatto proprio un ciclo da quando avevano 15 anni con me, la prima squadra mia, diciamo, del trofeo dell'amicizia. E quindi ho seguito veramente anno dopo anno, tutte le estati, insieme a Antonio Pochino. E non dobbiamo, secondo me, assolutamente perdere ciò che bisogna fare per questi ragazzi, per farli migliorare, e non parlo solo da un punto di vista tecnico, ma parlo proprio come solidità mentale per giocare alcune partite, come solidità fisica. Cioè, ci sono alcune problematiche, definiamole così, secondo me vanno analizzate per cercare di migliorare ancora di più. Sì, perché certo. Certo, certo, però io sto notando come Andrea Capobianco ci parla ancora dall'Egitto, la linea non è perfetta come potete sentire. Marco, però insomma stiamo lavorando bene a livello giovanile e lo facciamo da anni, ed è per questo che io continuo a pensare che magari complice la crisi economica eccetera eccetera, i nostri giovani giocano, vincono, sono protagonisti, e l'unica strada è quella che ci hanno insegnato gli jugoslavi tanti anni fa, quando eravamo giovani. No Marco, mi piace fare questo parallelo, me lo consenti professore? Assolutamente, penso che quando eravamo giovani la scuola slava produceva tanti giocatori. Diciamo che in Italia ci sono sicuramente un'attenzione al settore giovanile, la qualità del lavoro degli allenatori di club, perché poi il meraviglioso lavoro di Capobianco senza la base del lavoro degli allenatori club non saremmo qui a parlarne. Ci sono tante situazioni, ma io credo che quello che manca è quando adesso questi ragazzi l'anno prossimo dove andranno a giocare, che tipo di situazione a livello di competizione, di formazione troveranno, e questo credo che sia un qualche cosa che non deve dire no, io penso questo, io penso A, io penso B, io sono contro, no, quella è una brutta idea. Però veramente è il momento, per rispetto dei Bucarelli e degli Oxiglia, di fare qualche cosa tutti insieme, di parlare davvero e non di dire due o tre cose superficiali, perché adesso abbiamo vinto l'argento, allora tutti devono giocare dovunque. No, bisogna conquistare, bisogna continuare a crescere, bisogna farsi il culo, ma io mi aspetto questo dai giovani. Marco, c'è chi ti fa i complimenti come telecronista per le tue disamine su Sky, eccetera. Io vabbè, te li faccio, ma li lascio passare perché voglio vederti in panchina al più presto, as soon as possible. Hai capito, fratello? Ho capito, fratello, ma ti dico che io sono anche contento di quello, molto sì, no, contento di quello che faccio. Sì, no, va bene, ti garba, mi interessa poco, ti voglio vedere in panchina. Ciao Marco, ciao. Ciao Marco. Ciao, saluto Andrea Capobianco con un pensierino sulla nazionale femminile. Ti ho letto prima i complimenti di Masciadri, no? Sì. L'altro giorno ho avuto ospite per una lunga chiacchierata Petrucci, che mi ha detto: lì sono veramente uscito dai miei panni da giacca e cravatta. Non ci passerà mai. Siamo incazzati ancora adesso, lo rimaniamo, Andrea. Ma certamente dispiace a tutti per tutti quanti abbiamo visto come è finita, ma e tutti quanti abbiamo visto come io sono forse un po' più arrabbiato per la partita con la Turchia. Perché la partita con la Turchia avrebbe significato per noi anche un cammino un po' diverso. Però io sono arrabbiato per quell'episodio, cioè quello finale e quello che ha deciso. Andrea, ti lascio tornare con calma, poi ci risentiamo nel corso dell'estate, sarà un piacere. Ciao, va bene, ciao, grazie, complimenti, ciao. Ancora, ti abbraccio. Abbiamo il GR, poi torniamo sul calcio, sui Dreams oppure incubi. Andiamo sugli incubi che funzionano, Giovanni. Sì, quelli andiamo a Roma. Di Roma, 800240024 per le vostre chiamate. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo, ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Tutti convocati. Allora, leitmotiv della puntata Sweet Dreams. Me la fai risentire, Gianmarco Ferronato? Un pezzettino. Belli forti, perché dobbiamo triturare la Juve. Ci vediamo in circo massimo. Grande. Altro che Sweet Dreams, qui siamo ai sogni mostruosamente proibiti del compianto Paolo Villaggio, Giovanni Capuano. Circo Massimo, dove i tifosi della Roma credo siano andati due volte nella loro storia recente. Dove? 11 anni fa, oggi ci andava 1 milione di persone per festeggiare davvero l'Italia campione del mondo. Sbaglio, Massimo Caputi? No. Così abbiamo fatto un po' di storia. Massimo, sentiamo Elio da Napoli che ha qualcosa da dirci sul mercato della Roma, io credo. Elio, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti. Dica. Stavo pensando che forse Monchi sta anche vendendo un po' di giocatori per ridurre il monte ingaggi, che secondo me era molto alto per la Roma. Ho capito, ma riduciamo pure il monte ingaggi. Non è una ragione. Riduciamo il valore della squadra. È esattamente l'operazione opposta rispetto a quella che ha fatto De Laurentiis, che ha aumentato il monte ingaggi, ma ha mantenuto. Si è tenuto elevatissimo il valore della squadra. Massimo. Sì. Sogni mostruosamente proibiti quelli di Monchi. Allora, avrai letto, io l'ho fatto prima a beneficio dei nostri ascoltatori, l'Instagram di Strootman, Nainggolan, Salah, eccetera. Sembra in partenza che anche Raja, eh? Ma questo, diciamo, è più una sensazione social e di ambiente che non perché ci siano dei reali affari, nel senso, mi spiego, cioè è ovvio che nella Roma una cosa è certa, tutti hanno un prezzo, tutti quindi potenzialmente sono in vendita e lo è e lo può essere anche Nainggolan, soprattutto visto a quanto risulta l'interesse dell'Inter e in particolar modo di Spalletti. Però credo che la cessione di Nainggolan sia molto lontana, almeno al momento, anche perché la Roma di cessioni ne ha fatte già un bel po', ha incassato un bel po' di soldi, probabilmente a metà da una parte c'è l'esigenza economica, dall'altra probabilmente c'è anche l'esigenza di vendere dei giocatori che hanno mercato ma che al tempo stesso non si ritenevano straordinariamente strategici per il gioco di Di Francesco, e quindi diciamo che in questo momento nella Roma mi sembra che ci sia poche certezze su quello che potrà essere la campagna acquisti cessione prossima, perché Monchi è nuovo anche nel modo di fare e di gestire il calciomercato rispetto magari a dei canoni a cui siamo maggiormente abituati, quindi è un po' tutta da scoprire la Roma sotto tutti i punti di vista, io credo. Ma Nainggolan è un giocatore che si sposa, quello nuovo, quello che ha ricostruito in campo con la nuova posizione Spalletti dietro la punta, quasi da trequartista, è un giocatore che serve Di Francesco, cioè è uno di quei profili tattici che tu dici, il valore non si discute, ma è uno di quei profili tattici che tu dici questo ha un posto nella squadra di Francesco sicuro, può ed è quello qualunque cosa, no, per carità, il valore di Nainggolan non si discute, può giocare in diversi ruoli compreso quello. Ma io penso questo, che Nainggolan in questo momento è incedibile, o dovrebbe essere incedibile, per quello che rappresenta anche nell'ambito della tifoseria. Mi spiego, dopo queste cessioni vendere anche Nainggolan sarebbe un colpo troppo duro a una tifoseria già abbastanza un po' sconcertata e non voglio dire avvilita, ma che comunque è in attesa del grande colpo. Se gli cedessero anche Nainggolan sarebbe veramente dura. Per quello che riguarda tatticamente, l'intuizione di Spalletti fu ottima. Nainggolan è uno straordinario centrocampista leggermente anarchico, almeno questo è quello che risulta a me per quelle che furono le valutazioni di Spalletti, che appunto gli rivestì quel ruolo. Però io credo che in una squadra dinamica e offensiva come quella di Di Francesco, Nainggolan possa giocare anche in un ruolo diverso da quello dell'anno scorso. Sì, poi senti Massimo, anche dal punto di vista dell'immagine, cioè del messaggio che vuoi far passare ai tifosi, Monchi è nuovo del mestiere, è abilissimo, eccetera. Però non è che puoi smontare comunque la squadra, poi magari prenderà dei giovani straordinari, eccetera, eccetera. A questo punto si tratta anche di una questione, diciamo, di opinione pubblica, perché mi hai venduto anche quello che al 100% restava, cioè Rudiger, eh? Dopo aver venduto Paredes, dopo aver venduto Salah per ragioni di bilancio, adesso serve un esterno su cui c'è grande mistero. Però insomma non è che puoi smontare così la squadra, poi tu mi dici fidiamoci di Monchi, per carità. No, però a 60 milioni un giocatore che a maggio fa 30 anni, io credo che qualunque club ci rifletta. No, ma guarda, io vorrei essere chiaro, cioè io dico fidiamoci di Monchi nel senso vediamo, più che fidiamoci, vediamo di che cosa riuscirà a fare, perché comunque la garanzia di un risultato di sicuro successo non ce l'ha nessuno. Il calcio non è una scienza esatta, e quindi e non si fa neanche con l'album delle figurine, non basta comprare questo. No, ma non sto dicendo questo. No, sto facendo un preambolo per dire che a Roma non è che il problema è di Monchi. La Roma americana, da quando è arrivata a oggi, è sempre stata così l'estate della Roma. Non è che c'è una grande novità. La verità, con una differenza, Massimo, che questa è l'estate che viene dopo l'inverno, in cui più o meno la Roma americana ha capito che riuscirà a risolvere il tema dello stadio. Appunto, e mi sembra che uno si aspettava una qualcosa di diverso. Emerga il fatto che la proprietà americana non abbia, ha rifinanziato anche, ha ricontrattato debito con Goldman Sachs, lo sappiamo, non abbia in questo momento grande voglia di buttare tutti questi capitali nel mercato della Roma. La sensazione che emerge è questa, l'immagine che emerge è questa. No, ma non c'è dubbio, ma ripeto che poi è un'immagine che continua negli anni. Quello che stride, e sono d'accordo con voi, è che nel momento in cui tu l'anno scorso sei arrivato secondo, hai ridotto almeno in termini di punteggio il distacco con la Juventus, che sei andato a 4 punti, hai raggiunto la Champions League, che è sempre stata considerata primaria e vitale. Certo, è questo lo sconcerto dei tifosi, cioè il fatto che ci sia una squadra che è arrivata seconda, è arrivata in Champions League e che invece di essere rafforzata in questo momento è indubbiamente indebolita. Certo, l'immagine che emerge è questa, anche perché insomma arriva Anastasic, difensore centrale, ex Fiorentina, che era andato al Manchester City per una buona somma, ma rimangono le doverose perplessità su quello che accadrà nel futuro della Roma. Ecco, quindi... guarda, io ci terrei però a dire una cosa, che mi riferisco a Di Francesco. L'errore che non si deve fare è quello poi eventualmente di dare la responsabilità a un allenatore che seppur giovane, seppur diciamo non è uno dei big, perché comunque ha iniziato da poco, cioè il ridimensionamento della Roma non è in questo momento, non è certo da dare ad affidare a Di Francesco. Questo sono, no, però il rischio che Di Francesco non sia un uomo forte. Cioè, mi viene in mente il parallelo con Spalletti, che va in conferenza stampa, dice: mi hanno fatto promesse, se non le mantengono verrò qui e le racconto. A me viene in mente quello con Pioli. Ma magari Di Francesco, ecco, oggi è un profilo più simile a quello di Pioli, che a quello di Spalletti, anche se come spessore. Oppure, per dare un po' di coraggio ai tifosi della Roma, facciamo sì che sia invece come Conte che andò alla Juventus, bene, e Allegri che andò al Milan. Va bene, ok, facciamo così. Ciao Massimo, grazie. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ascoltatore Alessandro da Milano, poi voglio andare al Tour de France, dove ieri sono successe cose turche. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, siete, io sto chiaramente con Spalletti per una questione proprio di educazione. Questo tifoso è uno screanzato, non si può offendere. Ma è un'abitudine, Giovanni, correggimi se sbaglio, è un'abitudine comune per i tifosi, non è abitudine comune per l'allenatore invece andare a fare quello che ha fatto Spalletti. Sì, il gesto di rottura, Alessandro, è quello, no? Ma il problema è anche che se un giocatore sta giocando, si sta allenando, tu puoi manifestare le tue intenzioni, ma senza dovere in quella maniera lì così aggressiva, ecco, è una cosa che non concepisco. Comunque sto con Spalletti e anche nei confronti della dirigenza, cioè è un allenatore che mi è piaciuto, parla molto chiaro e a me fa piacere, ecco. Ma ti ricorda un po', fatte ovviamente le debite differenze, quindi Mourinho, non stiamo dicendo che è la stessa cosa, ti ricorda un po' Mourinho, che anche sul mercato, io ricordo, veniva ad agosto in conferenza stampa e diceva: questa rosa non mi va bene, manca un esterno, manca, diceva le cose che non andavano senza far troppi sconti. Ci assomiglia un po', Alessandro. Sì, sono d'accordo con voi, sono d'accordo. Sì, poi vediamo che mercato farà l'Inter. Comunque io credo che Spalletti verrà accontentato, quindi non c'era bisogno di arrabbiarsi. Una pubblica dichiarazione su ciò che volevo e non ho avuto, sogni mostruosamente proibiti. Allora, voglio andare al Tour de France, cominciamo così con il riassunto sonoro di ciò che è successo ieri. Attenzione, perché dice un problema per From. C'è un problema per From alla bicicletta. Chiamava la miraglia. Forse non riesce a cambiare. Intanto Fabio Aru parte e Quintana gli va dietro a 32 dell'arrivo. Oi, si è infiammata la corsa. È successo qualcosa a From con la bicicletta. Luca sta cercando l'assistenza, chiede l'assistenza. Forse ha un problema al cambio, perché aveva un rapporto molto agile. Ho capito, ma c'è qualcosa. Ma la macchina. Intanto parte Richie Porte. Riprendono già Pantano. Ha già ripreso Carlison Pantano. Ed è Fabio Aru ad attaccare, incollato alla ruota. Nairo Quintana e c'è anche Richie Porte. E ora si spinge From, evidentemente. Ma è successo qualcosa alla bicicletta, non si riesce a capire che cosa abbia avuto. Io ho sentito alla radio che si era fermato Froome, per questo che mi sono fermato anche io, ho rallentato, non avevo visto che lui si era fermato. Quando tu hai attaccato eri talmente preso dal gesto agonistico? Sì, poi c'era tanta gente ai lati nella strada e non, appena ho sentito che si era fermato, che aveva 15 secondi, mi sono fermato. Ovviamente non gli funzionava il cambio, lo sapremo dopo. Vai, se aveva la gamba doveva sfruttare il suo compagno di squadra. Che brutta cosa! Ragazzi! Non è successo, io non ho visto. Brutta cosa questa. No. Questa qua non vorrei. Non so se si è scusato, se l'ha fatta apposta. Uran, c'è il problema al cambio, è troppo duro, ma Bardet riparte. Uran che passa con Bardet, Rigoberto Uran, Romain Bardet con rapporto lungo e Barguil, attenzione a Barguil, farà Barguil, il Bretone, Barguil, Barguil davanti a Uran e prende gli abbuoni Prum. Questo è il karma, Barguil oggi se la strameritava, dai. È una tappaccia, era oltre che dura, siamo le strade bagnate, non abbiamo preso tanta acqua per fortuna, perché altrimenti sarebbe stata ancora più pericolosa. Le discese erano veramente impegnative e io ho preferito non rischiare troppo. Meraviglioso, guerriglia psicologica, Giovanni, come Raikkonen, come Vettel, Hamilton, bellissimo. Con magari due grandi domande che poi mi farei fare a Pier Augusto Stagi. Vabbè, fagliele subito, no? Ciao Pier. Ciao, buon pomeriggio. La prima domanda è: come fa uno come Aru, che ha un compagno in fuga, ad arrivare penultimo lui del gruppetto e ultimo il suo compagno? Evidentemente c'è qualche problema di comunicazione o di leadership. E la seconda: ma ha fatto bene Aru, se come ha detto ha fatto a fermarsi, perché gli hanno detto che Froome aveva avuto un problemino? Cioè, non si era detto che nel ciclismo il fair play non esiste? Allora, sulla volata, per quanto mi riguarda, io penso semplicemente che Aru non ha fatto proprio la volata perché era stanco, e questo me l'ha confermato anche ieri sera prima di imbarcarsi sull'aereo anche Beppe Martinelli. Ma hai visto la gara che com'è stata, quanto è stata dura, quanto è stata selettiva? Lì hanno fatto una volata al rallentatore, chi ne ha vinto, chi ne aveva di più tra quelli che ne avevano di meno, e Aru ne aveva sicuramente di meno. Non si può dire che non si sono messi a para, cosa vuoi che tiri, ha fatto la volata Jakob Fuglsang perché ne aveva un po' di più, e ci ha provato fino a 100 metri dal traguardo, quando poi sono arrivati un Uran che avrebbe dovuto vincere quasi con una gamba, e invece ha vinto al photo finish per pochi centimetri su Barguil. Sono d'accordo con te, invece, se intanto io sono convinto di un'altra cosa, che le bugie hanno le gambe corte, e vedrete che i Pirenei e infine nell'ultima settimana sulle Alpi voleranno altri cefoni, io spero semplicemente solo figurati. Le bugie le ha raccontate sia Aru che Froome. Loro dicono: ah, non l'ho visto partire quando è scattato, ma perché io avevo un problema, avevo un problema meccanico, io non l'ho visto perché stavo scattando. In realtà la verità non sta, non è così, cioè Aru ha provato a staccarlo, poi in realtà Ricci Porte ha detto: caro Fabio, guarda che dietro è rimasto e stai facendo una brutta figura. A me non piace questo minuetto, perché il fair play non mi piace neanche nel calcio. Ma scusa, Pier Augusto, allora non stiamo correndo la corsa della parrocchia, stiamo correndo il Tour de France al massimo livello professionistico e agonistico possibile. Il Tour de France nel tappone, nel primo grande tappone del Tour, nell'ultima salita al Mont-du-Chat, non nella prima delle sette, perché sai, succede un guasto meccanico nella prima salita su sette. Vabbè, diceva: chiudo un occhio, lo aspettiamo, perché mi sembra anche ingiusto. Vabbè. Ma lì la bagarra è bagarra, certo. È storia. Senti, voglio chiederti invece due cose. Come va detto, torniamo un attimo, un secondo solo al Giro d'Italia. Starò carogna, poi la meritate, la strameritate, lo diciamo tutto. Ma quando Pondumulen si è fermato nei campi, un corridore lì attacca. Ma non chiaro. È che sta lì a ragionare, a pensare cosa devo fare. E no, mi piace, no. Nibali e Quintana hanno commesso un errore. Madornale. Più Quintana, perché più Quintana? Non perché colombiano, Nibali italiano ed è più mio amico di Quintana, semplicemente perché era il più forte e aveva la scuola più forte. Invece Nibali era praticamente da solo con Pellizzone. Non ne hanno approfittato, hanno perso amaramente, hanno perso una grandissima occasione, perché lo sport è sport, se no si sta a casa. Ma io ho visto che li conosco, lo sport è sport a livello professionistico. Quando giocano con la moglie ad Adi, Tutti i professionisti vogliono vincere e devono vincere, sono pagati per vincere. Io sono contrario a mettere la palla fuori quando vedi il giocatore per terra, ci deve pensare l'arbitro. Ragazzi, va bene il fair play, ma ripeto, non stiamo giocando il torneo notturno dei bar e nemmeno stiamo correndo il giro della parrocchia. Voglio chiederti invece una cosa: ieri si è fatto fuori quello che era il favorito di Froome, cioè Ricci Porte, che è caduto, si è fatto anche piuttosto male, poveretto. Secondo te Froome si aspettava un Aru così fastidioso? Sì, questo lui l'aveva capito già al Delfinato. Ah. Esattamente nella tappa del Mondo Sharp, quando Aru è andato in fuga con Alejandro Valverde, la tappa che poi è stata vinta dal compagno di squadra Jacob Fuglsang, lì ha capito che l'Astana ha due corridori estremamente pericolosi, però sa anche una cosa, e io vado un po' in controtendenza, per me dalla tappa di ieri, ahimè, esce rafforzato Froome, perché ha confermato che nonostante sia all'85-88%, quindi non al top, comunque quando lui ha sgasato ha fatto male, ha fatto male. Aru è stato molto bravo, perché un altro corridore probabilmente avrebbe quegli 80 metri che ha perso, sarebbero stati letali. Invece lui ha resistito, ha lavorato in acidosi, è stato tosto di testa ed è rientrato. E lì non dico che ha vinto il tour, ma sicuramente poteva perdere. Però Froome ha dimostrato di essere un cagnaccio, come dicono i corridori. È un cagnaccio, però ha dimostrato anche di essere attaccabile e soprattutto ieri, certo, abbiamo capito che è un tour da vivere. Ce la giocheremo nelle ultime tappe, ce la giochiamo. sull'Isoare, sul Galibier. Sarà bellissimo. Ciao Pieragosto, a presto. Ciao Carlo, ciao a tutti. Ti abbraccio, che bel tour. Sì, ragazzi. Bellissimo. Io devo dire la verità, non me l'aspettavo un aro così. Abbiamo pochissimo, un minuto e mezzo. Fabio da Padova. Sì. Buongiorno, dica. Buongiorno, dottor Genta, grazie per avermi convocato. Grazie sempre a voi. Ascolti, volevo fare un preambolo e volevo dare un colpo alla botte, uno al cerchio per Vettel. Sì. Il preambolo era che la Formula 1 secondo me è un giorno di squadra. Anche secondo me saltiamo il preambolo, sono d'accordo con lei. Allora, il primo punto è il jump start di Bottas, che è evidentissimo. Io l'ho visto in diretta ieri, a occhio nudo si vede. Tra altre cose, da un frame, guardando la camera a casa, si vede nettamente che l'Europa si muove prima dei cinque pallini rossi del semaforo. Quindi io ho scritto anche a Zappallone e alla Gazzetta, perché Pinalevi ha detto che è stata la prima, però mi sembra assurdo, perdonami, non è una cosa che si interpreta, lì ci sono i sensori, ci sono le regole. Bravo Giovanni. E quindi alla fine è come il goal non goal, adesso che c'è la goal line technology, si è salvato per un millesimo di secondo, esatto. Cioè sotto i 200 millesimi di tempo di reazione è considerata falsa partenza, ma questo esiste anche nell'atletica leggera, anche con i 100 metri, c'è una soglia fisiologica che viene riconosciuta. Bottas ha avuto un tempo di reazione di 201 millesimi, si è salvato per un millesimo, tutto regolare, gli è andata bene, ci ha provato probabilmente, ma gli è venuta la partenza perfetta alla fine. Andrei avanti, non si può fare. Grazie Gio, ciao, alla prossima. Ciao. Giorgio De Luca il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzana in redazione. Sarà un piacere ritrovarvi tutti domani alle 14, tutti convocati. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.